si paga dopo. Noi senza inferno non resteremo. Se l'amor mi costa questo, non voglio sconto, voglio pagare. Io, innocente mai mai, invadente mai mai, prigioniero mai mai, fuori tempo mai mai, non regalo mai mai, non ritardo mai mai, non dipendo mai mai, non ho pace mai mai. E se fosse per sempre mi stupirei. E se fosse per sempre ne gioirei. Perché quando mi rubi e mi stacchi dal mondo, sale forte l'umore e l'amore va in sole. Del mondo mi son trovato e ho camminato. Nelle mani avevo fiori e tante scuse per non morire. Tu, disillusa mai mai, esordiente mai mai, regolare mai mai, indecente mai mai, non mi perdi mai mai, ma non perdi mai mai, non confessi mai mai, non subisci mai mai. E se fosse per sempre mi stupirei. E se fosse per sempre ne gioirei. Perché quando mi rubi e mi stacchi dal mondo, sale forte l'umore e l'amore va in sole, sole. Mia divinità a corrente continua, mia che come te non ne fanno mai più. Profumiamo insieme di un'essenza che resta. Cosa vuoi che sia la diversità? E se fosse per sempre mi stupirei. Na na na na na na na. E se fosse per sempre